in primo piano. Buongiorno, buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli. Sentite la mia voce ancora un po' così da influenzata, mi perdonerete e spero che non mi scappino colpi di tosse, ieri sono riuscita a evitarli. Oggi non ci sono i quotidiani perché il giorno di Pasqua è uno di quei pochi, devo dire, giorni dell'anno in cui comunque noi giornalisti della carta stampata abbiamo questo privilegio di non lavorare e quindi il giorno dopo i giornali non ci sono. Oggi si lavora, quindi domani i giornali ci saranno e comunque per gli aggiornamenti la cosa migliore è seguire la radio, però ci sono anche i siti. In questo momento è ancora molto presto, i colleghi del sito del Sole 24 Ore stanno arrivando adesso, come quelli di molti altri siti, quindi gli aggiornamenti veri e propri si avranno nel corso della giornata, quindi davvero gli aggiornamenti migliori sono quelli dei GR, in questo caso, visto che siete su Radio 24, quelli di Radio 24. Vediamo però, io ho dato un'occhiata veloce a come aprono i siti questa mattina, cominciando dal nostro, da quello del Sole 24 Ore, che ha l'approfondimento di cui abbiamo parlato anche ieri, perché oggi la maggior parte dei mercati finanziari saranno chiusi, però questa sarà comunque una settimana importante in cui si aspettano le mosse della Federal Reserve, o comunque ci si muove anche in prospettiva delle mosse della Federal Reserve di aprile e anche su come si muoveranno le valute, il dollaro in particolare, naturalmente la sterlina, che abbiamo visto ha perso molto negli ultimi mesi per via dello spauracchio della Brexit, dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, non dalla zona euro, perché sappiamo appunto che nella zona euro la Gran Bretagna, pur essendo un fondatore dell'Unione Europea, non è mai entrata, si è tenuta stretta la sua sterlina. E poi sempre sul Sole 24 Ore, naturalmente, tutti gli scontri, tutti gli aggiornamenti sugli scontri di ieri a Bruxelles. Un po' la stessa apertura su Repubblica, che più che oltre a tutti gli aggiornamenti da Bruxelles sulle indagini, avete sentito che coinvolgono molto anche gli inquirenti italiani, c'è naturalmente l'ennesimo aggiornamento sull'ennesima strage terroristica, quella di ieri in Pakistan, a Lahore, una delle più grandi città del Pakistan, dove ora il numero dei morti è arrivato a 65. Pakistan strage nel parco giochi la Repubblica. Naturalmente i siti hanno il vantaggio rispetto alla carta stampata di poter, oltre a farvi ascoltare degli audio, anche a farvi vedere molte foto, delle gallerie impressionanti e anche dei video. Un approfondimento anche sulla sorte del giovane ciclista belga Antoine de Moitier, che dopo la caduta sulla corsa Gand-Wevelgem ieri era stato ricoverato, era stato detto che era in condizioni gravissime e ora è morto, e sappiamo questa volta che non è stato un passante, ma è stato un mezzo al seguito, una moto degli organizzatori a causare la morte di questo ragazzo. E quindi l'articolo di Luigi Panella, se il pericolo arriva dai mezzi al seguito. Poi c'è un video interessante sul sito di Repubblica da Palmira, perché sapete che per quello che ne sappiamo, con l'aiuto dell'aviazione russa, l'esercito ufficiale siriano di Bashar al-Assad ha riconquistato Palmira, e qui appunto su Repubblica trovate un video di questa città che una volta era famosa per i suoi splendori architettonici, ora è rimasto purtroppo non moltissimo dopo le stragi fatte dall'ISIS. Un approfondimento su Lady Gaga, che compie 30 anni e sono quelli che Repubblica definisce 30 anni di follie. Anche qui naturalmente il vantaggio su un sito è di poter postare delle grandi gallerie. Il sito del Corriere, che sapete da poco più di un mese, no, più di un mese ormai, è a pagamento dopo un certo numero di articoli. Stanno sperimentando quello che in inglese si chiama firewall, è un esperimento appunto. Noi tutti noi giornali con dei siti stiamo cercando di sperimentare formule di integrazione tra la redazione di carta e quella web, tra l'edizione di carta e quella web, e cercare anche di adattare il modello di business, perché se finora i giornali si sono retti sui ricavi da edicola, ricavi da abbonamento e ricavi da pubblicità, su internet abbiamo quasi sempre dato tutto gratuitamente, e questo ha mandato in crisi moltissimi giornali. Il Corriere della Sera comunque ha l'apertura simile a quella di Repubblica: Pakistan, decine di morti tra i cristiani, strage nel parco dei bambini. Anche qui un link per vedere le foto soprattutto della disperazione. La Stampa: kamikaze in Pakistan, strage al parco. E vi segnalo dal sito, dall'home page della Stampa, anche l'editoriale girato, il video editoriale potremmo dire così, Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Ognuno di noi può fare la differenza. Qui la questione affrontata in realtà è quella del terrorismo più in generale. Ieri ce n'era una versione più breve sulla edizione di carta della Stampa. Sul sito trovate appunto il video di Maurizio Molinari. A proposito degli attentati di Bruxelles, che purtroppo superati così in ordine di orrore da quelli del Pakistan, però sono recentissimi anche questi perché sono del 22 di marzo, vi segnalo un articolo uscito sulle SWAR che poi trovate sul sito voxeurope.eu, che sapete è un sito che segnalo spesso anche quando facciamo la rassegna stampa europea il sabato mattina molto presto, magari qualcuno la segue, e su questo sito viene monitorata non solo la stampa europea ma la stampa di tutto il mondo, soprattutto quando si occupa di questioni europee, quindi quello che cerchiamo di fare noi proprio in quella stampa, in quella rassegna stampa. Il titolo di questo articolo apparso sulle SWAR di Christophe Berti è: dopo l'emozione apriamo un dibattito sereno. Per guarire le ferite il Belgio ha bisogno di tempo, di una discussione posata sulle cause degli attentati e di fare chiarezza sui metodi per affrontarle. Christophe Berti è il caporedattore di Le Soir, cioè per chi non conosce un po' così il gergo delle gerarchie giornalistiche, il caporedattore è il grado gerarchico subito sotto il vice direttore, quindi comunque ha una grande responsabilità soprattutto operativa in generale nella scelta dei contenuti del giornale. Vi leggo allora una parte di questo articolo. Le lacrime, i silenzi, la sincera solidarietà e la sobrietà. Il Belgio ha iniziato il suo secondo giorno di lutto, mercoledì 23 marzo, con grande dignità. Stranamente, l'emozione percepita in tutto il regno era più forte di quella della vigilia, il giorno dei sanguinosi attentati che hanno sconvolto Bruxelles. In realtà, martedì il paese dava l'impressione di essere sotto shock, come paralizzato dalla violenza inaudita dei terroristi, mentre ieri aveva cominciato ad attribuire nomi, volti e storie alle vittime. Una personificazione che ci ricorda la nostra fragilità e ci provoca naturale compassione. È ciò che definiamo lutto. Ufficialmente è durato fino a giovedì sera, ma sarà necessario molto più tempo per guarire le ferite di un paese. E per fare ciò servono due elementi, la serenità e la chiarezza. La serenità rappresenterebbe la vittoria dell'intelligenza, evitare le caricature, i parallelismi e il populismo, perché è chiaro che due pericoli incombono oggi, la caricatura esterna e la caricatura interna. Le televisioni estere che confondono Molenbeek e Meilbeek. Sapete, Molenbeek, il quartiere dove viene chiamato un po' l'incubatrice dei terroristi, e invece Meilbeek, la stazione della metropolitana dove è stata messa una delle due bombe il 22 di marzo. E descrivono il Belgio come terra bruciata, non portano nulla di costruttivo, non più degli esperti francesi d'ogni sorta che non hanno mai messo piede a Bruxelles. Chi è senza peccato sul terrorismo, si chiede Jean-Claude Juncker nell'intervista che ha rilasciato alle Soir, non si cominci a rimproverare il Belgio, non condivido queste critiche. Quindi diceva il caporedattore delle sue due elementi, chiarezza, serenità e chiarezza. Ecco, la chiarezza è uscire dall'omertà e a questo punto ogni domanda è valida, addirittura necessaria in democrazia. Domande sull'inchiesta, sulle informazioni, sui percorsi dei terroristi nati in Belgio, su ciò che sapeva o non sapeva Salah Abdeslam. È un eufemismo dire che il terrorista ora in prigione possiede un tesoro di informazioni che potrebbero dare molte risposte ad altrettanti interrogativi. Domande e anche e soprattutto una reale riflessione sugli ultimi 40 anni del Belgio e della sua politica, in tema di sicurezza, di integrazione, di convivenza, sul lassismo evidente su alcuni punti e la trascuratezza su altri, sulla scarsa lungimiranza, probabilmente, a proposito del progetto globale che possiede o dovremmo possedere. Se permettiamo che il dibattito resti ideologico, fra coloro che pensano che vada tutto bene e i populisti che avanzano soluzioni semplicistiche, non andremo lontano. È questa la posta in gioco nei prossimi giorni, settimane e mesi, la nostra capacità di dare un nome ai problemi per saperli affrontare e non aggirarli, la nostra volontà di sviluppare un progetto sociale chiaro per il Paese. Se possiamo trarre lezioni da ciò che ha conosciuto la Francia sin dal mese di novembre, evitiamo di cadere rapidamente nella discordia nazionale, nella diatriba politica, nei veri falsi dibattiti che portano al ridicolo dello scontro sulla decadenza della nazionalità e concentriamoci sui punti fondamentali. Sarebbe il modo migliore per rendere omaggio alle vittime degli attentati. E purtroppo sappiamo che poi, come avete sentito nei GR, ieri a Bruxelles, con la scusa della cancellazione della marcia per la pace per ragioni di sicurezza, si sono scatenati degli scontri. Anche violenti, anche se per fortuna di violenza vera e propria poi alla fine non se n'è vista, tra queste bande apparentemente di hooligan di squadre di calcio, quindi le frange più violenti delle tifoserie delle squadre di calcio, e la polizia. Avete visto le immagini, poi la polizia è intervenuta, anche qui contrariamente a quanto auspicava il caporedattore di L'Essoir ci sono già polemiche, anziché appunto unirsi ci si divide anche su, per esempio appunto sulle modalità di intervento della polizia, che probabilmente ha semplicemente cercato di evitare che gli scontri degenerassero. E sappiamo, ricordiamo per esempio qui a Milano quando ci sono stati gli scontri sulla questione dell'Expo, prima ancora che l'Expo iniziasse, quanto è stato facile far degenerare una manifestazione pacifica in uno scontro in una giornata che poi è stata bruttissima per la città, con zone della città per fortuna non distrutte, però sicuramente gravemente danneggiate. E anche qui è stato probabilmente per un innescarsi di reazioni tra polizie e manifestanti, che è sempre difficilissimo prevedere e controllare, che però si auspica sempre che non sfocino nella violenza. A proposito di siti, forse l'avete sentito ieri proprio qui su Radio 24, ieri è stato l'ultimo giorno in cui l'Independent, uno dei quotidiani inglesi più autorevoli, diciamo non fa parte della categoria dei tabloid, quindi come il Sun o il Mirror o il News of the World, quelli che sono stati al centro anche dello scandalo, lo ricorderete, delle intercettazioni illegali, l'Independent ha deciso, tra l'altro un quotidiano che negli anni è passato di proprietà e è diventato di proprietà del figlio di un oligarca russo, Lebedev, che vive a Londra da molti anni ormai, un ragazzo anche abbastanza giovane, credo che abbia intorno ai 40 anni, l'aveva comprato per rilanciarlo, non ci è di fatto riuscito per quanto riguarda l'edizione cartacea, anche per le ragioni che dicevamo all'inizio, e quindi ha deciso di tenerlo vivo ma soltanto online, e ieri è stata appunto la prima giornata di un'edizione unicamente online, oggi la seconda. Sono andata a vedere i titoli, riguardano l'ISIS, il titolo è ISIS may have lost the battle of Palmyra but it hasn't lost the war, l'ISIS quindi forse ha perso la battaglia di Palmyra, quello che dicevamo prima, ma non ha per ora perso la guerra. E poi l'aggiornamento anche in questo caso sulla bomba di Lahore, anche qui il bilancio purtroppo provvisorio è di 65 morti, 300 feriti, tutti tra le persone cattolici pakistani che stavano festeggiando la Pasqua. E poi molte notizie anche di politica interna, per esempio un commento di Robert Fisk, che è un editorialista dell'Independent, proprio su Palmyra. Si chiede Robert Fisk: why is David Cameron silent on the recapture of Palmyra? Perché David Cameron non ha ancora commentato la notizia che Palmira sarebbe tornata sotto il controllo di Bashar al-Assad, grazie, come abbiamo detto all'inizio, anche all'aiuto delle truppe dell'aviazione russa, che bombardava dall'alto l'ISIS, mentre on the ground li combatteva, l'ISIS veniva combattuto dalle truppe ufficiali di al-Assad. Il Guardian, l'altro quotidiano britannico, che è anche il sito in lingua inglese in assoluto più visitato al mondo, completamente totalmente gratuito in questo caso, anche qui la notizia, l'aggiornamento è quello sull'attentato di Lahore con tutti questi vittimi e tutte queste vittime, e poi anche un aggiornamento su quello che è successo ieri a Bruxelles. Ci fermiamo per un attimo, anche per una pausa sul meteo, perché oggi purtroppo non è bello come è stata la giornata di Pasqua, ma sentiamo appunto cosa aspettarci. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e scusatemi se ho illuso prospettando delle notizie sul tempo. In realtà le prossime saranno dopo, verso mezzogiorno e mezzo, mi dice Peter Bescapè in regia, però insomma purtroppo, questo l'avevo detto e lo vedete tutti, non è una giornata bella come quella di ieri. Comunque magari più tempo appunto per leggere i giornali. Dicevamo, oggi i giornali, i quotidiani non sono in edicola, lo saranno domani naturalmente, e quindi stiamo un po', dopo aver dato un'occhiata veloce ai siti che oggi verranno tutti aggiornati, stiamo dando un'occhiata ai settimanali o magari quello che ci siamo persi nella settimana scorsa. E allora la copertina di Internazionale, visto che abbiamo appena finito di parlare di Belgio, è dedicata proprio agli attentati del 22 marzo. Bruxelles, 22 marzo 2016, questo è il titolo semplicissimo, e la foto di tre ragazzi molto giovani che si stanno molto vicini, due di loro si abbracciano anche e sono chiaramente sconvolti per quello che è successo nella loro città. L'editoriale è del direttore di Internazionale, come sempre, Giovanni De Mauro. Ve ne leggo una parte. Siamo in guerra, ha detto il premier francese Manuel Valls. Non è il momento delle colombe, ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. In realtà sono anni che l'Europa è in guerra, in Afghanistan, in Iraq, in Libia, e forse anche per questo che siamo arrivati qui. Naturalmente il primo pensiero deve andare alle vittime, ai loro familiari, ai loro amici. Non c'è nulla al mondo, nessuna scelta politica, nessuna religione che possa giustificare un attentato. Il giorno dopo, però, non è possibile non interrogarsi sul fallimento delle eccezionali misure di sicurezza imposte poco alla volta in Europa negli ultimi mesi. Vale la pena di ricordare che in Francia, un paese guidato da un governo socialista e retto da un presidente socialista, è in vigore da novembre lo stato di emergenza. E non è possibile non notare che gli attentati di Bruxelles arrivano a pochi giorni dalla cattura esibita trionfalmente di Salah Abdeslam, il terrorista più ricercato d'Europa, arrestato proprio a Bruxelles dopo una lunga caccia all'uomo. Il sistema di sicurezza ha fallito, scrive l'Economist, e l'Europa deve accettare l'idea che attentati come quello di Bruxelles si ripeteranno con regolarità. Per evitarlo bisognerebbe innanzitutto togliere terreno sotto i piedi ai terroristi, alla loro capacità di reclutamento nelle periferie delle metropoli europee, nei ghetti e nelle sacche di povertà, fermare le guerre in Siria e in Medio Oriente, aprire le frontiere e definire politiche di accoglienza comuni, combattere le disuguaglianze, la disoccupazione, la precarietà, la povertà, il razzismo, favorendo al tempo stesso lo sviluppo delle aree più deboli economicamente e distribuendo diversamente le risorse economiche. Probabilmente invece la risposta andrà nella direzione opposta: controlli ancora più stretti, misure d'emergenza rafforzate, frontiere ancora più chiuse, caccia agli stranieri, più militari nelle strade, bombardamenti intensificati, budget per gli eserciti aumentati, come se questo non fosse esattamente il risultato voluto e sperato dai terroristi, e come se questo non alimentasse esattamente quella terribile spirale che ci ha portato qui, ancora una volta, a contare i morti di un nuovo attentato. E questa appunto l'opinione di Giovanni De Mauro. Ma vi segnalo, a proposito di possibili soluzioni o spunti di riflessione, un articolo che io ho trovato interessantissimo nell'edizione Weekend del Foglio, in prima pagina, che si intitola, è del direttore del Foglio Claudio Cerasa, Le donne, la vera chiave contro l'Islam violento. Terrore, Belgio, Sharia. Perché servono molte Sarah Khan, e adesso leggendo l'articolo capirete chi è Sarah Khan, per scoprire le ipocrisie dell'islamicamente corretto. E vi leggo appunto parte di questo articolo. Sarah Khan è una giovane musulmana cresciuta in Gran Bretagna che qualche tempo fa ha fondato un piccolo e geniale movimento di nome Inspire, che pur non avendo avuto grande successo ha contribuito a portare avanti un'idea giusta. Non si può combattere il fondamentalismo di matrice islamista senza che siano per prime le donne musulmane ad alzare il velo sulle ipocrisie dell'islamicamente corretto e sulla condizione drammatica in cui spesso si ritrovano a vivere le donne di fede musulmana. Il tentativo di Sarah Khan di creare nella comunità islamica un'internazionale del femminismo, capace di ammettere che il fondamentalismo islamista non può essere combattuto senza considerare con onestà la cornice della religione che ispira quella forma di integralismo, è una testimonianza importante. Rappresenta uno sforzo sincero di costruire all'interno della comunità islamica gli anticorpi al jihad, riconoscendo che esiste un problema con la parola violenza all'interno di una certa interpretazione del Corano. Una violenza che, come sappiamo, colpisce l'Occidente attraverso guerre, terrore e attentati e che ha un suo riflesso in una violenza parallela, che è quella che colpisce ogni giorno milioni di donne, la cui vita è segnata da una rigida interpretazione da parte degli uomini di un versetto del Corano, che è questo: «Le vostre donne sono come un campo per voi, venite dunque al vostro campo a vostro piacere». Chiuse le virgolette. Il poeta siriano Adonis, a ragione, sostiene che la questione femminile è la cartina di tornasole del rapporto tra Islam e modernità e vede nell'incapacità dell'Islam di combattere dal suo interno la violenza perpetrata alla donna la stessa incapacità che ha una parte consistente dell'Islam di condannare con onestà il fondamentalismo di matrice islamista. E qui aggiungo che è stato purtroppo per l'ennesima volta assordante il silenzio con cui gli imam più importanti di tutto il mondo non hanno condannato gli attentati, perché di fronte agli attentati del Belgio e poi magari quelli del Pakistan ci si aspetterebbe un coro di condanne, e invece si sono così levate sparute voci con, tra l'altro, spesso dei distinguo, tirando in ballo naturalmente la questione della reazione a quello che l'Occidente sta facendo in varie zone del mondo. Ma vi leggo ancora un pezzo di questo articolo. Sarah Khan, raccogliendo di recente il recente invito del ministro dell'interno inglese Theresa May, British Muslim Women Must Challenge Extremism and Fight the Islamic State, le donne musulmane britanniche devono sfidare l'estremismo e combattere lo Stato islamico, ha capito che non ci potrà essere quella rivoluzione luterana nell'Islam tanto invocata dalla nostra adorata Ayaan Hirsi Ali se le donne dell'Islam non condanneranno all'unanimità la condizione di schiavitù in cui tra lapidazioni, infibulazioni, stupri, mutazioni genitali, matrimoni infantili, torture e giganteschi apartheid di genere spesso vive una donna musulmana. E ricordiamo anche la semplice questione del velo. Sapete che i capelli sono considerati, anche qui interpretando in modo forse un po' troppo letterale un versetto del Corano, i capelli sono considerati un ornamento e vanno coperti perché, come tutti gli ornamenti, provocano gli uomini, quindi li possono vedere soltanto il marito, i figli, il padre, gli eunuchi, ma nessun altro, e quindi le donne devono coprirsi i capelli perché sennò gli uomini si agitano alla vista di questo ornamento femminile che sono i capelli. E vabbè. A proposito di donne non emancipate di più, vi cito sempre dal Foglio il caso di Iris Apfel. Forse non tutti la conoscono, ma la trovate, basta cercarla su internet. Qui c'è una pagina interna sull'edizione del weekend del Foglio, è un bellissimo articolo di Fabiana Giacomotti. Questa signora ha 94 anni, vi assicuro che non le dimostra, è eccentrica nel parlare, nel vestire, nel muoversi, nell'arredare la sua casa. La foto che pubblica al Foglio la vede proprio nel suo salotto, che potremmo definire un po' sovraccarico, un po' barocco, ma questa è la sua cifra. È una giornalista, ma in senso molto lato, ha scritto di tutto, ha scritto anche libri e ha sempre lavorato nel mondo della moda, ma davvero con una sua fortissima personalità, una giornalista di moda che non segue le mode, e soprattutto appunto a 94 anni e ancora adesso è considerata una cacciatrice di trend, ma soprattutto una donna indipendente che appunto a 94 anni ha ancora molto gusto per la vita e quindi anche gusto per la sua professione, per la sua passione che è la moda. Una rivoluzione di 94 anni, spirito eccentrico, icona di stile, Iris Apfel domina le sfilate parigine ed è la nuova testimonial, pensate, di un'auto francese. Torniamo alla internazionale, perché gli argomenti naturalmente sono tantissimi di politica estera ed è sempre un peccato che forse sui giornali non ci sia spazio anche per per paesi, per esempio quelli dell'Africa, di cui si parla molto poco. E allora Internazionale di questa settimana traduce un articolo apparso su Liberation che riguarda il Benin, un milionario per guidare il Benin. Benin è un paese poverissimo dell'Africa con pochissime risorse naturali, che però sta faticosamente cercando da anni ormai di consolidare la sua democrazia. E quindi ci spiega in questo articolo Maria Malagardis: il ricco imprenditore Patrice Talon ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali. Alcuni osservatori temono che possa concentrare troppo potere nelle sue mani. C'è una mappa che fa vedere come il Benin, che è un paese molto piccolo, confini con il Burkina Faso, con il Togo, con la Nigeria, con il Ghana. Una volta era uno dei paesi da cui passavano molte delle tratte e delle contrattazioni per gli schiavi che poi partivano soprattutto per il Nord America, e poi ha cercato appunto di darsi un'economia di qualche tipo, in parte con l'agricoltura, in parte con i servizi. E ora forse appunto c'è uno spiraglio di democrazia, anche se secondo Liberation il miliardario che si avvia a vincere il secondo turno potrebbe anche concentrare troppo potere nelle sue mani. A proposito, visto che restiamo un attimo sull'internazionale, l'altro grande fatto della settimana scorsa, la visita di Barack Obama a Cuba, con lo storico incontro con Raul Castro, per il quale Obama è stato molto criticato in patria, su Internazionale trovate un po' un collage di alcuni commenti fatti sia negli Stati Uniti che a Cuba su questa conferenza stampa, dove hanno parlato sia Barack Obama che Raul Castro, e dove sostanzialmente si è detto che la normalizzazione, così viene chiamata, andrà avanti nonostante le differenze, e differenze ancora naturalmente prevalgono, soprattutto sulla repressione. Barack Obama appunto è arrivato a dire liberate subito tutti i prigionieri politici, Raul Castro ha detto se esistono li libero subito, insomma un ping pong diplomatico che sicuramente continuerà. Visto che ieri, come sempre, c'è stato poco tempo per approfondire, per leggere gli articoli della nostra domenica del Sole 24 Ore, vi risegnalo l'articolo che è sulla Bologna Children's Book Art Fair, che è questa fiera del libro per ragazzi che si terrà, non è ancora iniziata, si tiene dal 4 al 7 aprile a Bologna. È la più importante fiera di settore di questo settore dell'editoria per ragazzi al mondo. È proprio siccome la maggior parte dei libri per ragazzi sono illustrati, è sì una fiera di libri, cioè quindi dove la parola scritta trionfa, ma la parola scritta si sposa con l'illustrazione, tant'è che in fiera ci sono anche molte mostre. E allora vi leggo l'inizio dell'articolo che trovate appunto sulla domenica del Sole 24 Ore di ieri, spero l'abbiate ancora in casa. Signori bambini, specchiatevi qui, questo è il titolo dell'articolo di Goffredo Fofi che scrive: 50 anni sono tanti, perché appunto la fiera compie 50 anni. Mezzo secolo pieno di avvenimenti e pieno anche di libri, di film, di fotografie, di video, di installazioni, di immagini, di suoni. Le arti e la cultura sono diventate nel frattempo uno dei campi più frequentati dai giovani e, diciamolo, dall'economia di quasi tutti i paesi del mondo, in particolare i più sviluppati. Uno dei suoi rami meno secchi è certamente quello dell'editoria per bambini e ragazzi, di cui ogni anno, appunto da 50 anni, dà conto la grande fiera annuale bolognese del libro per ragazzi, la Bologna Children's Book Fair, cui la città affianca da anni egregiamente due altre manifestazioni di grande prestigio: il Festival del Cinema Ritrovato, ideato dalla Cineteca Cittadina, e la Fiera del Fumetto, pensata dal gruppo di educatori specializzati della rivista Amelin sul fumetto e i suoi dintorni. Alla fiera per ragazzi è possibile rendersi conto di quanto di meglio si fa nel mondo per divertire ed erudire le generazioni nuove e nuovissime e, come è in ogni impresa che è anche economica, agli editori che pensano soprattutto al guadagno, sono i più e sono logicamente i più prevedibili, si affiancano piccoli e medi editori di grande interesse, attenti ai valori dell'arte e della pedagogia. e questo appunto lo trovate, tra l'altro è proprio uno speciale di 4 pagine sulla Domenicale che è uscito ieri insieme al nostro giornale. Ora però ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico, ci ritroviamo per un'ultima parte, però mi fa segno Peter che non sono ancora pronti i ragazzi del traffico. Allora vi segnalo sempre dalla domenica un altro articolo che ieri forse non ho neanche avuto tempo di citarvi ed è su un'altra fiera, la fiera Art Basel, la trasferta a Hong Kong di Art Basel di Pia Capelli. La quarta edizione della fiera si è aperta nel timore di un rallentamento del mercato dopo il boom. Nel 2011 il picco fu di 19 miliardi di dollari di opere d'arte. Ora però sono pronte le notizie sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo, ve lo dico, ve lo ripeto ancora una volta, ma sicuramente ormai l'avete capito, oggi i quotidiani non ci sono, ci saranno domani. Ieri i giornalisti della carta stampata è uno dei pochi giorni in cui non si lavora durante l'anno, il giorno di Pasqua, e quindi ieri abbiamo fatto invece la rassegna stampa con anche i supplementi culturali. Vi ho segnalato alcune cose, ma come sempre un po' di fretta perché il tempo è sempre tiranno. E allora torno un attimo sulla lettura del Corriere della Sera, che tra l'altro ha fatto questa scelta non dalla sua nascita, ma dopo poco, di restare in edicola tutta la settimana. Una cosa secondo me intelligente che magari potremmo fare anche noi prima o poi. Ha naturalmente un risvolto organizzativo importante, però poter trovare il supplemento della domenica anche durante la settimana sicuramente aiuta, perché non sempre si riesce a leggere tutto. E quindi la lettura appunto la trovate separatamente tutta la settimana in edicola, la lettura del Corriere della Sera. Però vi rileggo lo stesso la prima parte di questo articolo che ho trovato molto bello, che si chiama Il Sospiro, di Edoardo Boncinelli, che è un genetista, uno dei più importanti genetisti italiani al mondo, che ha scritto questo articolo partendo da due ricerche recenti, sul sospiro, che è questo modo umano, ma non soltanto degli umani, anche molti animali sospirano, questo modo diciamo alternativo di respirare. Edoardo Boncinelli, che è anche un grandissimo divulgatore, così scrive: quando eravamo ragazzi e leggevamo i fumetti, incontravamo una scritta sob ogni volta che qualcuno singhiozzava, e un'altra sig quando qualcuno sospirava, mentre si tossiva come cough cough. Abbiamo così imparato che in inglese to sob vuol dire singhiozzare, to sigh vuol dire sospirare e to cough tossire, 3 verbi di presumibilmente natura onomatopeica. Le lingue si imparano anche così. Il respiro è un protagonista della nostra vita individuale e di relazione, uno di quegli eventi ordinari dei quali la scienza si è occupata poco e la letteratura, di pregio o di dozzina, anche troppo. Una di quelle evenienze della vita quotidiana delle quali coloro che credono di sapere sanno tutto e ne discettano, come il sorriso, il riso, il singhiozzo, che arricchiscono il repertorio delle nostre manifestazioni emotive, repertorio vario e affascinante del quale gli uomini hanno sempre discorso senza saperne quasi niente. D'altra parte, chi di noi non ha mai sospirato di nostalgia, di desiderio, di rimpianto, per ricordi fuggevoli o per angustie presenti, per amore, per scommessa o per rabbia, nelle diverse vicissitudini che costellano il cammino della nostra vita? Talvolta il sospiro è incoercibile, può fungere da spia di un nostro stato d'animo profondo, al punto che ai tempi del romanticismo dichiarato si diceva che l'amore si può fingere o stentare, ma mai nascondere. Un improvviso rossore, un sospiro non trattenuto, hanno smascherato un gran numero di passioni inconfessate e hanno tradito le trame sentimentali più accortamente celate. E queste erano le pagine appunto 2 e 3 della lettura. Poi dalla lettura vi segnalo anche il cartellone, le pagine del cartellone con tutte le mostre d'arte che secondo la lettura vale la pena di visitare, soprattutto in Italia. Quindi si va dalle nuove mostre della Fondazione Guggenheim a Venezia, a Palermo, dove c'è Antonio Ligabue, Palazzo Reale con i suoi con la sua pittura Naif, Tigri a contadini e tormenti, e poi anche, per esempio, c'è un piccolo excursus alla National Portrait Gallery di Londra, dove ci sono in mostra un'ennesima serie di ritratti, appunto, che la National Portrait Gallery in generale fa girare. Vi segnalo il Origami, che è questo strano, bizzarro settimanale in edicola ogni giovedì con La Stampa. Si chiama così perché sembra, quando lo ricevete, sembra un foglio A4 normale, e poi in realtà per leggerlo davvero bisogna aprirlo completamente e trovare un po' l'articolo che interessa di più, oppure aprirlo completamente, ma ci vuole un tavolo molto grande, e leggere anche più di un articolo contemporaneamente. Il tema, comunque, perché in generale ogni edizione ha un tema monografico, è la giovinezza infinita. Estendere il più a lungo possibile l'età della bellezza e del vigore fisico è un'ossessione antica quanto il genere umano. Oggi però la scienza, grazie agli studi sul genoma, rende il miraggio quasi realizzabile. Anche il mercato comincia a guardare con crescente interesse ai bisogni della quarta età, che ogni giorno ingaggia con nuovi mezzi la sua sfida contro il tempo, all'insegna del vecchio refrain Forever Young, giovani per sempre. C'è anche una poesia in copertina di Alda Merini e poi tanti approfondimenti all'interno. Il venerdì di Repubblica, che appunto è il settimanale di attualità in edicola con La Repubblica, ha una copertina intitolata È questo il futuro, che richiama un lungo articolo che poi trovate all'interno di Riccardo Staglianò. Turismo senza muoversi da casa, sesso virtuale, viaggi spaziali da fermi. Segnatevi questo nome: Oculus. È il visore high-tech che vorrebbe trasformarsi nel più importante degli elettrodomestici, o nel più inquietante. E vedremo se manterrà le promesse, perché abbiamo visto che molti di questa wearable technology, questi device che si indossano e che dovrebbero portarci in mondi virtuali particolarmente stimolanti, a partire, ricorderete tutto, dai Google Glasses, ecco, poi magari non hanno tutto il successo che promettono. Sempre dal venerdì, un approfondimento, abbiamo visto prima sulla Sole 24 Ore come ci siano dei timori che il rallentamento dell'economia cinese si rifletta anche, per esempio, sull'acquisto di opere d'arte e quindi sull'edizione di Hong Kong di Art Basel. Ecco, dal venerdì un articolo di Gabriele Battaglia, che si occupa in particolare della regione del Guangdong cinese, Cina, il miracolo. L'articolo si intitola Cina, il miracolo è finito. Un'intera regione industriale di 60 milioni di abitanti, quindi pensate, una regione della Cina grande quasi con tanti abitanti quasi quanti quelli dell'Italia, dove far fronte a un'amara novità: l'Occidente non compra più e si rilancia sul mercato interno, il nuovo futuro. Questa del resto è la sfida anche annunciata, come ce lo racconta anche spesso Rita Fatiguso qui alla radio o sulle colonne del Sole 24 Ore, la sfida del governo cinese, cioè far partire davvero i consumi interni più che affidarsi all'export, visto che fino adesso la Cina è stata considerata appunto la piattaforma mondiale di produzione, e quindi poi anche di un'economia trainata perciò dall'export di tutto quello che si produce e viene appunto poi venduto soprattutto a noi occidentali, ma non solo, anche ad altre economie asiatiche. Una segnalazione sempre dal venerdì, una recensione a un libro di Joseph Ledoux, che è un neurologo americano, ma anche lui bravissimo divulgatore, ha scritto tantissimi libri, gli ultimi quasi tutti sono stati pubblicati da Raffaello Cortina, e questo in particolare si chiama Ansia, ma non è un'analisi, l'ennesima analisi sull'ansia, ma piuttosto un aiuto nuovo, dei suggerimenti per liberarsi dall'ansia, o per imparare seriamente a conviverci, liberarsi dall'ansia riscrivendo i ricordi. Joseph Ledoux, massimo esperto dei meccanismi neurali alla base della paura, spiega perché i farmaci non la bloccano. Bisogna lavorare sulla memoria, dice, per riplasmarla. E Torniamo un attimo invece su Internazionale, perché c'è un reportage proprio dall'Independent, ancora una delle ultimissime copie di carta dell'Independent, che racconta i nuovi italiani che conquistano Londra. Sapete che una delle comunità più numerose di Londra, in proporzione ma anche in assoluto, è quella degli italiani, quindi molti italiani giovani e meno giovani che sono andati a Londra per studiare ma soprattutto per lavorare. La crisi economica spinge molte famiglie di origine bangladese a lasciare l'Italia per trasferirsi nella capitale britannica, dove aprono bar e locali italiani. Quindi anche oltre agli italiani proprio, anche coloro che erano qui in Italia da noi come immigrati, che in realtà vanno in Inghilterra perché sembrerebbe, probabilmente anche grazie al passaparola, quello che dicono loro i loro connazionali, che comunque durante la crisi economica è più facile vivere lì che non qui in Italia, dove sappiamo che anche la crisi economica ha colpito anche tutti gli immigrati regolari, naturalmente. Ultimissima segnalazione che ho tempo di farvi per oggi: Peter mi fa segno dalla regia. Domani torna Alessandro, naturalmente, perché è una giornata super normale, di super non più di ferie. Ancora un buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli.